is a small wonder. Lovely and bright and soft curls. She's a small wonder. A child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll enchant you at her sight. She's a small wonder, and she'll make your heart take flight. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. She's fantastic, made of plastic, microchips here and there. She's a small wonder, brings love out. Cari bruschettini, cari bruschettine, cari bruschettini con l'asterisco, benvenuti, buonasera. Oggi è il 12 marzo 2020, pienissima emergenza coronavirus, e sono in realtà le 18:13 e io sono Nina, tutta sola nella sua casina, nel suo studio, perché la nene oggi non ce l'ha fatta a fare la puntata, e oltretutto stiamo rispettando le normative vigenti sul virus, e quindi siamo, oltretutto io sono in quarantena e siamo tutti quanti belli separati a casa propria. La regia del Wombat è rimasta sola, speriamo di tornare ad abbracciarla al più presto, e quindi niente, oggi sarà una brusca a metà, con una parte soltanto, e sarà anche una versione un po' ridotta, perché così, insomma, fare le ricerche da soli non è mai semplice, e però insomma riusciremo sicuramente a mandare avanti qualcosa, mancherà qualche parte esilarante, questo è poco ma sicuro. Quindi di cosa parliamo oggi? Di cosa parlo io da sola con voi oggi? Di una bufala. Allora, siamo in pieno periodo di crisi sanitaria, siamo entrati ufficialmente nella pandemia, e le fake news, tema di cui abbiamo parlato già un sacco di altre volte la nostra trasmissione della Brusca, sono effettivamente il pane quotidiano dell'informazione, perlomeno che circola sul web. E c'è anche un grande luminare, famosissimo personaggio, veramente la capa tosta della linguistica, della glottologia e delle neuroscienze, della linguistica neurodegenerativa, che sì, neurodegenerativa è il mio, è il mio degenerare delle cellule, sì, avete capito bene, della linguistica generativa, è Noam Chomsky. Ovviamente ho fatto questo cappello introduttivo anche, insomma, sbagliato per parlare del sommo e unico grande Noam. Perché? Perché da diversi anni, forse ormai 3 o 4, sul web si trovano queste fantomatiche strategie della manipolazione mediatica elaborate proprio da lui. Proprio da lui? No, non è vero. Non è esattamente un decalogo elaborato da Chomsky, che ovviamente è anche un sociologo, ormai è una delle menti più acclamate a livello di sguardo sulla politica, sul controllo mediatico, e quindi questo decalogo ovviamente non può essere elaborato da lui direttamente. Dubitiamo tutti che Chomsky si senta in grado di dare 10 regole ferme e ferre per riconoscere la manipolazione mediatica. Ma detto questo, direi che possiamo intanto rinfrescarci un po' le idee con un pezzo musicale. Ovviamente, mancando la nenia, oggi mancherà anche un po' quel tocco trash. Io ho messo qualche cosa che avevo già nella mia playlist, ma si sa, in tempi di guerra, niente, questo detto è meglio non dirlo in diretta e nemmeno in registrazione. We'll be right back. Eccoci, dopo i Bad Brains, va a parlare di queste 10 strategie della manipolazione mediatica elaborata da Noam Chomsky, che non è vero. Allora, che dire? Innanzitutto si supponeva che la regola numero uno fosse la strategia della distrazione. Pensateci un po'. Deviare l'attenzione del pubblico dai problemi importanti attraverso un fiume di informazioni che non sono pertinenti o rilevanti. Quindi deviarla dai veri problemi sociali, imprigionarla da temi senza vera importanza, mantenere il pubblico occupato senza tempo di pensare. E in realtà è una citazione questa di Chomsky che ritroviamo nel testo Armi silenziose per guerre tranquille della metà degli anni 90, se non sbaglio. Poi ovviamente creare problemi e offrire le soluzioni, questo è generalmente è il grande ricatto, no, del consumismo, il grande ricatto anche del commercio. Quindi si crea un problema, una situazione prevista appositamente per causare una reazione da parte del pubblico con uno scopo, cioè quello che il mandante delle misure riesca a essere in realtà la soluzione stessa ai mali da esso stesso provocati. Una costruzione, mi rendo conto, complicata per un concetto decisamente semplice invece. Fino alla strategia della gradualità, regola numero 3. Per far accettare una misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, lentamente e continuamente. Pensiamo al modello neoliberista, che vediamo col coronavirus sta effettivamente fallendo. Durante i decenni degli anni 80 e 90, parliamo delle privatizzazioni, della finta flessibilità, della disoccupazione di massa, della precarietà. Sono una serie di cambiamenti che avrebbero provocato in realtà una vera rivoluzione se fossero stati applicati tutti in una sola volta. Invece, secondo queste fantomatiche strategie della manipolazione chomskiana, fanno parte invece della strategia della gradualità. Fino alla strategia del differire, ovvero far sì che una decisione impopolare venga accettata presentandola un po', guardate, come dolorosa e inevitabile. Ovviamente non è il momento contingente, nel senso siamo effettivamente in emergenza, quindi questa quarta ipotetica regola chomskiana non andrebbe applicata in questo frangente di tempo, però pensiamo ad altre situazioni ed ecco che noteremo sicuramente che insomma questa strategia del differire si è verificata, no? E quindi è più facile accettare un sacrificio futuro che un sacrificio immediato. La regola invece andiamo a leggere ora, la quinta, è rivolgersi al pubblico come bambini. Se qualcuno si rivolge ad una persona come se avesse 12 anni o meno, allora, in base alla suggestionabilità, lei tenderà con probabilità ad una risposta e reazione anche sprovvista di senso critico, proprio come quella di una persona di 12 anni o meno. Siamo sempre, come riferimento, in armi silenziose per guerre tranquille. Numero 6. Usare l'aspetto emotivo molto più della riflessione. Sfruttare l'emozione è una tecnica classica per provocare un cortocircuito su un'analisi razionale e infine il senso critico dell'individuo stesso. Pensate un po' al Cari amici di Salvini, io e la Nenia, mi pare nell'ottobre del 2018, abbiamo affrontato in diverse puntate il linguaggio del porco ed effettivamente ci siamo resi conto di come questa regola, quindi l'aspetto emotivo fosse studiatissimo nel linguaggio di Salvini, una cosa incredibile perché si pensa che abbia, diciamo, le funzioni cerebrali e intellettive probabilmente di uno streptococco, invece no. Mantenere il pubblico nell'ignoranza della mediocrità, ovviamente, questa è la numero 7, la regola 7 di questo decalogo di Noam Chomsky, che non ha ovviamente nemmeno necessità di essere spiegata, e infine stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità. Spingere il pubblico a ritenere che la cosa più comune è essere mediocri, perché nella mediocrità ci si può identificare tutti quanti. Infine, il senso di colpa, che è effettivamente il castigo della nostra società, che non ha ragioni solamente cattoliche, ma viene perpetrato proprio dagli organismi, diciamo, mediatici. Quindi far credere all'individuo che è soltanto lui colpevole della sua disgrazia per causare della sua insufficiente intelligenza, per causa, scusate, della sua insufficiente intelligenza, delle sue capacità o dei suoi sforzi. Così, invece di ribellarsi contro il sistema economico, l'individuo si autosvaluta e si incolpa e a sua volta crea automaticamente inibizione in quelle che sarebbero invece le sue azioni non comandate e libere. Ma Chomsky, questa è una cosa che ha detto per davvero, senza azione non c'è rivoluzione. Infine, l'ultima delle 10 regole. Conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si conoscano. Meccanismo che il marketing perpetra continuamente. Purtroppo io per deformazione professionale queste cose le so. E quindi mi rendo conto che tutto questo è reale. Ovvero, negli ultimi 50 anni ci sono stati dei progressi piuttosto rapidi, per esempio della scienza, che hanno generato un divario crescente tra le conoscenze del pubblico e quelle invece possedute e utilizzate dalle elite dominanti. Forse questo è un postulato un pochettino più arretrato nel tempo, non è propriamente una cosa contemporanea. Il sistema è riuscito a conoscere meglio l'individuo comune di quanto egli stesso si conosca. Questo significa che può esercitare un controllo maggiore di quello che lo stesso individuo è in grado di esercitare su se stesso. Prendiamo gli scenari economici. So che questa è una trasmissione di linguistica, ma Chomsky non è solamente un linguista e ci dice che, o perlomeno in questo presunto decalogo, ci dice che l'economia non riesce a svilupparsi entro compartimenti stagni e la maggior parte delle regole politiche vengono applicate in un contesto sociale, il quale, se opportunamente influenzato, può far sì che quelle stesse politiche abbiano poi degli effetti predeterminati. Allora, queste 10 regole della strategia della manipolazione non realmente scritte, autografe da Chomsky, quindi dobbiamo fare una sorta di edizione critica di quanto lui dice catalogando negli errori, in realtà è un sunto molto molto asciutto di tantissimi concetti che Chomsky ha espresso nella sua vastissima attività di sociologo e non soltanto di linguista, come dicevo prima. E Lucia Rocco, che è una giornalista italiana che si occupa soprattutto di sociologia e di società, ci ha scritto un bellissimo articolo datato il 13 gennaio 2015 che trovate su luciarocco.it, che è La bufala del decalogo di Noam Chomsky. E ora invece ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo. Everywhere. walking in the dark, walking in the dark, walking in the dark. Questo era Jan Svenonius dal suo disco Escapism, e ora invece parliamo non con Lucia Rocco, ma di Lucia Rocco. Allora, it's a fake, I don't know the source. Some of it is drawn from or similar to things they've said, but it's not mine. Questo è quello che ha detto Noam Chomsky per smentire la bufala delle 10 strategie della manipolazione mediatica. Noam Chomsky è un professore, ormai si suppone in pensione, di linguistica al MIT di Boston. Ed è sua la teoria del trasformazionismo grammaticale. Ed è soprattutto però conosciuto al grande pubblico non tanto per la neurologia e la linguistica, quanto per le sue posizioni decisamente no global. C'è stato, dice Lucia Rocco, qualche buon tempone appassionato di Chomsky che ha scritto questo decalogo, e su questo non v'è dubbio, si sarà divertito, ma questo suo lavoro non può essere considerato assolutamente né corretto né utile. Nonostante questo, il testo tra il 2011 e il 2015 è diventato molto virale, tradotto in numerose lingue, riscritto su innumerevoli blog, registrato in tantissimi video e addirittura in formato infografica, comunque immagine. E ci sono tantissimi interventi che Lucia Rocco ha raccolto per diciamo testimoniare questa fake news. E, per esempio, Leopoldo Antinozzi, che è un ricercatore universitario e anche un documentarista, dice che questa propagazione delle notizie sia stata, di questa notizia sia stata particolarmente preoccupante per chi Noam Chomsky lo conosce piuttosto bene. E com'è successo tutto questo? Che qualcuno in giro per il mondo si è preso la briga di porsi poi il problema se questa storia del decalogo fosse vera o falsa. E l'autrice, diciamo, di questa accurata analisi è Nayef Heya, che scrive per Rivista Replicante, una rivista messicana di cultura critica, ed è una giornalista molto brillante che è andata direttamente alla fonte. Cosa ha fatto? Ha scritto una mail all'esimio professore, che gli ha risposto il 21 marzo del 2015, senza indugio, con la frase che abbiamo detto poco fa. È un falso, non ne conosco l'origine, alcune parti sono copiate o simili a cose che ho detto, ma non è mio. E così finalmente vediamo la rivalsa di Chomsky, delle sue idee, soprattutto anche di quello che al tempo era un social network piuttosto diffuso e anche piuttosto affidabile, che ora, poverino, sta subendo le percosse dei colossi Instagram e Facebook, che era Twitter. Questa notizia viene riportata su Twitter e non riscuote troppo successo. E allora Naif pubblica direttamente su Facebook questa notizia, mandando lo screenshot della email e racimolando solamente 19 like. Ci sono voluti tantissimi anni però affinché questa notizia trapelasse e ci facesse capire che in buona parte dei blog e delle anche io ora non vorrei dire, ma mi sembra di averlo letto sull'Huffington Post, queste 10 strategie della della manipolazione mediatica. Insomma, ci è voluto tanto tempo affinché si riuscisse a capire che si trattava di una bufala, e al tempo stesso però circolano ancora in rete queste 10 regole. Che dire? Questo è quanto, ci ha detto Lucia Rocco su questa bufala. Si è fatta una ricerca online, però troverete tantissime fonti minori, disinformazione.it, per esempio, critica impura, che affermano quanto in realtà questo decalogo della manipolazione mediatica di Chomsky e il suo essere un falso d'autore siano un po' specchio di come in realtà la fake news riesce a circolare. Per quale motivo? Per un principio molto semplice, che generalmente appunto si fa compendio di un grande pensatore per riuscire poi a rendere la cultura piuttosto spicciola, assimilabile da tutti quanti, senza troppi margini di analisi critiche e troppo tempo da impiegare nello studio. E questo è quanto. And it goes, and it goes, and it goes, and it goes, and it goes, and it goes. saluta a tutti voi cari wombati e saluto anche la mia amica Nenia che sarà con me sicuramente giovedì prossimo e, o comunque a distanza, ma ci sarà qui con noi, chissà in collegamento telefonico o quale diavoleria dell'etere riusciremo a trovare. E intanto io vi abbraccio a un metro di distanza e vi auguro una buona serata, ma soprattutto vi ricordo di controllare il nostro palinsesto, perché in questo periodo di emergenza stiamo facendo una vera e propria Radio Londra e avremo dirette dalle 19 alle 21.30 tutti i giorni, che verranno mandate a replica la mattina e orario di pranzo, e anche qualche appuntamento notturno con qualche racconto del terrore e dell'orrore. Si inizierà con Meinrich questa sera, così tanto per combattere questo virus con allegria tutti insieme. Io vi lascio l'ultimo pezzo con gli Shellac e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Ciao a tutti. Is this thing on? Thing on. This is America and all the ships at sea. Anyone within the sound of my voice. I've got 50,000 watts of power. Electricity. Can you hear me now? Out on Route 128, dark and lonely. Got my radio on. Can you hear me now? Can you hear me now?